in ognuno di noi c'è sempre una certa segreta speranza che dall'interno, anche dopo la morte, una qualche forma di coscienza esista ancora. Ed essere murati non è proprio una bella cosa. Mi sembrava un gesto carino, una paura irragionevole, ma dolce, che mi ha fatto commuovere di più del fatto di sapere che Gaia non fosse più in vita. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 6 minuti, quasi 7. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Andavo a ballare a Chandlerville e giocavo alle carte a Winchester. Una volta cambiammo compagni, ritornando in carrozza sotto la luna di giugno. E così conobbi Davis. Ci sposammo e vivemmo insieme 70 anni, stando allegri, lavorando, allevando 12 figli, 8 dei quali ci morirono. Filavo, tessevo, curavo la casa, vegliavo i malati, coltivavo il giardino e la festa andava a spasso per i campi, dove cantano le allodole, e lungo lo Spoon, raccogliendo tante conchiglie e tanti fiori e tante erbe medicinali, gridando alle colline boscose, cantando alle verdi vallate. A 96 anni avevo vissuto abbastanza. Ecco, tutto qui. E pensai a un dolce riposo. Cos'è questo che sento di dolori e stanchezza, ira, scontento, speranze fallite? Figli e figlie degeneri, la vita è troppo forte per voi. Ci vuole vita per amare la vita. Questo pezzo è un pezzo dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, che è semplicemente una raccolta di morti che parlano, detto molto male, o altrimenti di epitafi un pochettino lunghi tratti da questo, dal cimitero di questo paese ipotetico, che non ho ancora capito se è ipotetico oppure no. No, è vero, è un paese che è realmente esistito, che si chiama appunto Spoon River, che questo autore, che Edgar Lee Master, credo chiunque abbia fatto le scuole medie sappia chi sia, ha raccolto. Sono proprio semplicemente dei piccoli riassunti di vita dopo la morte. Sono le 16 e 8 minuti, oggi è venerdì 28 di gennaio 2011 e, come vi sto raccontando in questi giorni, una parte del mio passato è ritornata in maniera abbastanza prepotente nella parte presente della mia vita, cioè in quella che sto vivendo in questi giorni. E io, visto che ho deciso di raccontarvi tutta la mia storia, tutta la vita come se fosse un piccolo romanzo, ho deciso che era giusto raccontarvi anche questo, anche se in questi giorni la mia vita ha a che fare con la morte. Ho sempre avuto la condizione e la convinzione, perdonatemi, e in questi giorni ce l'ho ancora di più, che sia giusto poter parlare della morte e poterlo fare con leggerezza, sia giusto poter scherzare anche sulla morte. Non è proprio il caso di questo giorno, nel senso che quello che vi racconterò riguarda proprio una persona che è stata molto importante per me e che oggi non c'è più, anche se non c'era più in realtà già da un po' di tempo, e quindi oggi ho semplicemente cominciato il gioco prima su Facebook chiamavo il gioco dei riassunti brevi, cioè il gioco degli epitaffi, che sono una delle cose più semplici per cercare di raccontare una vita in una frase, con la semplice particolarità che di solito quella frase è scritta su una lapide. Chiaramente molti mi hanno scritto gli epitaffi più famosi, che poi abbiamo ritrovato anche noi, di cui vi leggo alcuni. Quello che mi diverte di più è quello di Al Capone, che dice: pietà mio Gesù. Alessandro Magno: un sepolcro ora basta per colui al quale il mondo non era abbastanza. E poi Georges Bernanos: si prega l'angelo trombettiere di suonare forte, il defunto è duro di orecchie. Ma ancora Walter Chiari è uno dei migliori: amici non piangete, è soltanto sonno arretrato. Camillo Benso Conte di Cavour: sono figlio della libertà, ad essa devo tutto quello che sono. E poi Emily Dickinson: richiamata. 800240024 349-238-6666. Sì, anche se sono le 4 del pomeriggio, ho voglia di parlare di epitaffi, e se qualcuno di voi ha mai pensato al proprio epitaffio, oppure ha deciso quale sarà, oppure ha deciso semplicemente di copiarlo a qualcun altro, 800240024 349-238-6666. Mia nonna dice che quando si sogna la morte è un modo per esorcizzare, per scacciarla. Secondo me anche pensare al proprio epitaffio è un modo altrettanto simile per allontanare. Alcuni messaggi che mi sono arrivati su Facebook, che non sono epitafi famosi ma sono concepiti dalle persone che ascoltano questo programma. Paolo: io metterei tranquilli, mi sto divertendo anche qui. Francesca: se sentite bussare provate a scavare. Elisa, come insomma, non ha bisogno di presentazioni. Elisa è l'autore del libro fantasy che tutti stiamo aspettando e che abbiamo chiamato due volte in trasmissione. Elisa, dopo una vita a chiedermi cosa farò domani, finalmente posso dormire. Spero di rinascere gatto o al massimo betulla. Questo parola mi dice, questo epitafio l'avevo annotato sul mio vecchio diario. Altrimenti ce n'è un altro che è: lascio ai posteri il mio debito in matematica. Ebbene sì, quando morirò avrò ancora 4 in matematica, mai saldato alle superiori. Ricadrà anche sulle spalle dei miei eredi. Ricordiamo anche che Lisa ha anche un debito di 5.000 euro che deve pagare ad una banca grazie al suo ex fidanzato. Probabilmente il suo epitafio riguarderà anche quei 5.000 euro lì. 800240024 349-238-6666. E c'è un messaggio invece che più che epitaffi riguarda un aneddoto che riguardante le scritte sulle lapidi. Arriva da Francesca. Ti racconto un aneddoto di famiglia che ha a che fare con gli epitaffi. Si racconta che mia zia, la zia Caterina, in vita sia sempre stata piuttosto taccagna, per cui quando il marito, noto medico condotto del paese, passò all'altro mondo, lei organizzò un funerale adeguato, anche se non particolarmente sfarzoso. Un anno dopo, o giù di lì, alcuni parenti andarono in visita alla tomba di famiglia e sbigottiti trovarono sulla lapide questa scritta: dottor, nome e cognome che non lo facciamo, data di nascita, data di morte, riceve dalle 8 alle 12. La cara zietta, come epitaffio, aveva riciclato la targa dello studio medico. 800240024 349 238 6666. Oggi si parla di epitaffi, ma soprattutto oggi si parla di Gaia. Sì, Gaia è morta. Lo so, non si dovrebbe cominciare un racconto del pomeriggio con un tono così, ma oggi questa è l'unica cosa che conta. Gaia è morta e tutto il resto è chiacchiera. È scarto di vita. Tutto il resto è nulla. Gaia è morta e ora è pure sepolta. Sembra poco, ma il fatto che sia chiusa dentro un loculo, in un cimitero a Novara, ha un senso profondo. E stamattina non potevo stare qui. Dovevo andarla a trovare. Dovevo andarla a salutare. Ecco perché mi sono messo in macchina e sono andato da lei. Ci vado da solo, a funerale fatto e finito. Perché è il mio modo di affrontare i lutti. Non so se sia giusto o sia sbagliato, ma è il mio modo e quindi va bene così. Posso decidere se stare fuori o entrare nel cimitero. Posso stare davanti alla tomba per un minuto o un'intera giornata. Devo rispondere solo a me stesso. È così che funziona. Arrivato all'ingresso mi sono fatto dire dove l'avrei trovata. L'omino in divisa mi ha indicato una zona dove sono sepolti i defunti freschi, quelli di giornata. Novara non è una grande città. Ma mentre non ce ne accorgiamo, ci sono sempre persone che se ne vanno. E non c'è giorno in cui manchi lavoro per i becchini. Chi si vuole far cremare, chi preferisce una sepoltura sottoterra. Gaia invece sta in uno di quelli che chiamano fornetti, che ha un che di ironico a sentirlo dire. Pare sia stata una decisione di suo padre, che ricalcava le stesse volontà di Indro Montanelli, che lui leggeva sempre. Essere messo in un loculo, ma non murato, con la lastra di pietra che doveva essere solo appoggiata. In ognuno di noi c'è sempre una certa segreta speranza, no? Che dall'interno, anche dopo la morte, ci sia una qualche forma di coscienza. Ed essere murati non è proprio piacevole. A me sembra un gesto carino. Una paura irragionevole ma dolce che mi ha fatto commuovere di più del fatto di sapere che Gaia non fosse più in vita. È tutto pieno di fiori. E lei mi guarda da una foto di quando aveva 15 anni. Era splendida, sorridente, senza un pensiero. Io, lei, Giorgio, Claudio e Agostino. È la forza del passato. E il mio cuore e la mia mente tornano quelle di un bambino che corre sotto il sole dietro i suoi amici, con cui crede che passerà tutta la vita, ovviamente, perché non c'è altra vita possibile che può immaginare. Io gli altri non so se voglia rivederli tutti insieme, ma lei sì. L'ho guardata negli occhi. Le ho parlato un po', le ho raccontato tutto di quello che è successo in questi 17 anni e alla fine mi sono scusato con lei. Go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With the loves just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You, sir, thrust the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and poems, the words you use should be your own. Don't plagiarize or take on loan. But there's not always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. Will trip you up and laugh when you fall. Could only be your own. And then produce the text from whence was ripped some dizzy whore 1804. I dreaded sunny days, so let's go where we're happy, and I meet you at the cemetery gates. Oh, Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so let's go where we're wanted, and I meet you at the cemetery gates. And Yeats are on your side, but you lose. Cause we're the lover wild in the mind. Comprare i fiori uscendo da un cimitero non è usuale. Però l'ho fatto. I fiori recisi sono comunque una bella cosa. E ho pensato che me li sarei portati in casa. Di questi tempi poi la natura si fa ancora aspettare. La primavera è un sogno. E un po' di colore in sala ci vuole. Sono sollevato da questa visita e passando davanti a un giornalaio compro una copia del Corriere di Novara. Non lo faccio mai perché lo trovo sempre a casa dei miei, però oggi sono un po' in gita e quindi me lo dedico. Lo leggo davanti a un cappuccino, al bar in piazza. Il cappuccino, la bevanda che in ogni luogo mi fa sentire a posto. Salto le pagine della politica e finisco sulla cronaca locale. E sbaglio, purtroppo. Gaia è lì, con la sua faccetta da quindicenne, a guardarmi e a chiedermi cosa stiano dicendo le persone attorno a lei, quelli che si riempivano la bocca di etica, di leggi, di politica, di morale e di religione. Gaia è morta dopo 17 anni di coma, questo è il fatto. Il suo cervello non dava alcun segno di vita dal momento dell'incidente, solo che il suo cuore non aveva mai cessato di battere, perché le macchine sanno fare bene il loro lavoro e perché lei era una ragazza fortissima. Fare una gara di bici con lei voleva dire farsi umiliare. Era la prima ad alzarsi e l'ultima ad andare a letto. Non ha mai saltato un giorno di scuola, tranne quando abbiamo bigiato tutti quanti per andare al fiume. Era giugno, era caldissimo. Dalla foto Gaia mi guarda e io non so che cosa dirle. Due intere pagine sono piene di valori della sinistra, valori del cristianesimo e valori della destra. In un angolo c'è una piccola intervista a suo papà, che dice che ora piangerà per una morte e prima o poi se ne farà una ragione. Mentre in questi 17 anni ha pianto e basta, senza speranza. Colmo solo di quel dolore lì, puro, cristallino, inutile, malvagio, infinito, un dolore che riempie tutta la vita passata, quella presente e quella futura. Io non ho nemmeno il coraggio di pensare di andarla a trovare. Eppure è una bravissima persona e gli voglio pure bene, quasi come a un padre. Nella polemica accesa da certi politicanti c'è la domanda se Gaia sia morta per cause naturali o se l'abbiano lasciata morire. Io vorrei rimanere sopra queste cose qui e invece non ce la faccio. E invece mi viene da piangere. Lo faccio perché di Gaia non si parla mai. Solo di tubi e di macchinari. Nessuno dice che da 17 anni lei non c'era più. Si citano a malapena le cause dello strano incidente di tanto tempo fa. Però nessuna memoria diretta e nessuno si è documentato. Per cui sono vaghi. E almeno in quello hanno il pudore di non inventarsi niente di falso. Il cappuccino mi va di traverso. Capisco che quella storia non è finita. Che Giorgio, Gaia, Claudio e Agostino sono ancora qui con me. E non posso tirarmene fuori. Non adesso. Telefono a Giorgio, ma trovo occupato. E guardo in giro, scopro che a Novara, quando si alza la nebbia, è un luogo dove esistono ancora persone che passeggiano chiacchierando. Questo mi fa sorridere un po', perché è da tanto tempo che non ci torno. Poi riprendo il telefono, provo a chiamare a scuola, ho fretta di parlargli. Chiedo del professor Piacentini, dico che è urgente. Me lo passano. Gli dico che sono stato al cimitero, gli dico chi ho visto e con chi ho parlato. Anche lui si mette a piangere, proprio lui. e io gli dico che va bene. Andiamo a trovare Claudio. On a winter Sunday I go to clear away the snow and green the ground below. April all an ocean away, is this the better way to spend the day? Keeping the winter at bay. What were the words I meant to say before you left? When I could see your breath lead where you were going to. Maybe I should just let it be. Maybe it will all come back to me. Sing, oh, January, oh. How I lived a childhood in snow and all my teens in tow, stuffed in strata of clothes. Pale the winter days after dark, wandering the gray memorial park, a fleeting beating of hearts. What were the words I meant to say before she left, when I could see her breath lead where she was going to? Ringrazio innanzitutto Alessandro Marcotulli che mi ha portato una notizia abbastanza fresca, è del 20 di gennaio, quindi una settimana fa, in cui si parla di questo signore che si chiama Adriano, quello chiamano come nonno Adriano, che sul suo magnifico monastero ha fatto così, insomma, che ha fatto scrivere non sulla propria lapide ma sugli annunci mortuari: l'unico dispiacere le veste andà via prima del Berlusconi, che tradotto è l'unico dispiacere è morire prima di Berlusconi. Questa notizia è del, ripeto, del 20 gennaio 2011. Però sono arrivati altri messaggi che arrivano sul 349-238-6666. Allora, Mauro, l'ho letto al Verano, al cimitero di Roma. Marito e manager insostituibile. Fummo quello che siete, siamo quello che sarete. In quanto amante di buon cinema, ho sempre pensato di mettere sul mio epitafio "odio lieto fine". Il mio epitafio invece è "ve lo dicevo io che non mi sentivo tanto bene". Questo però credo che sia Woody Allen, se non mi ricordo male. Gabriele, scriverei "ci vediamo presto". Però abbiamo trovato una persona che il suo epitafio non l'ha ancora scritto, ma ne ha scritti diversi perché costruisce lapidi. Pronto, Michele? Sì, pronto, ciao. Ciao, buongiorno, grazie mille per essere qui. Senti, tu costruisci lapidi nel senso che fai solo lapidi o fai anche altre robe di marmo o di pietra? No, sculture, restauri, eccetera. Ma sei un artista? Sì, esatto. Ah, ok. Senti, quante lapidi hai fatto? Beh, da quando ho cominciato a lavorare adesso non ne conto nemmeno. Ne ho fatte tantissime, 14 anni di lavoro. Ma quindi c'è tutta questa richiesta di lapidi artistiche? Oppure, scusami, o tu fai semplicemente lapidi canoniche o come ti vengono chieste? Canoniche e poi artistiche. Ok. È lo stesso, nel senso che a seconda della committenza poi tu gli parli e poi vedi cosa vogliono. Scusa, con quanto viene via una lapide? No, così penso al futuro, non si sa mai. Ah, come prezzo dici? Sì, sì. Bah, dai, anche 3.500, 4.000 euro, 1.300, 1.200. Questo è il tetto massimo, il tetto minimo, non che mi consideri, diciamo, da poco, però se dovessi spendere di meno? Beh, di meno 1.000, dai, ti faccio 1.000. Ok, abbiamo patuito il prezzo. Senti, dimmi invece qualche epitafio particolare, uno mi pare che tu te ne abbia in mente. Sì, quello che ti ho scritto esatto nel messaggio, che c'è scritto Gesù disse... passate tutti all'altra sponda. E che ti fa un po' pensare, perché dici, vabbè, il paradiso è gay. Forse il paradiso è gay. Senti, Michele, stai costruendo qualcosa adesso, qualche lapide particolare? Ne hai fatta, l'ultima che hai fatta? Beh, l'ultima che ho fatta, che sto facendo, è una cosa abbastanza semplice. Però ho terminato... Quanto ci mette a fare una lapide? Beh, normalmente ci metti, se hai già il materiale, non c'è un'evoluzione particolare, ci metti in 2 o 3 giorni, insomma, okay. 2 giorni, dipende poi. Michele. E poi se ci sono stato, eccetera, le cose cambiano. Michele, grazie mille. Altrettanto. Ciao, buona giornata. Grazie. 800240024 0024 oppure 349-238. Ho un pelucco in bocca che non riesco. Ok, fatta. Paolo Vinti. Allora, visto che si parla di persone che non ci sono più, ma le si vuole ricordare in una maniera leggera, così come cerco di fare, oggi ho scoperto che 2 mesi fa è scomparsa una persona che io non conoscevo molto bene, che però era uno di quei personaggi che se passi da una città non puoi fare meno di incontrare. La città è Perugia, nella fattispecie. Il personaggio era un giornalista intellettuale, era una forma, veramente una figura di riferimento a Perugia, una forma di riferimento per la politica, per la cultura. Si chiamava Paolo Vinti, era un signore che stava sempre seduto ai bar di Corso Vannucci, che conosceva tutti e a cui tutti chiedevano consiglio o una parola o qualcosa che riguardava l'attualità politica. Io me lo ricordo perché quando sono stato a Perugia per qualche tempo, lui sedeva nel bar di fianco a me e aveva 2 cravatte al collo, non legate, come se fossero una sciarpina. Immagina la creazione di un alfabeto, quindi la strutturazione delle sue rappresentazioni, la produzione e la riproduzione di lettere, la ricezione dell'alfabeto stesso. Insomma, e Paolo Vinti, chiunque l'abbia conosciuto, chiunque sia passato da Perugia, sa che era famosissimo per questi soliloqui che lui teneva, in cui parlava di tutto, di politica, di cultura, della bellezza e della donna, e chiudeva sempre con una frase che secondo me potrebbe essere il suo epitafio, non so se sia così, ma ci starebbe benissimo, che era: con emozione altissima. Paolo era di Milano, un pochettino si sentiva, e il suo epitafio potrebbe essere: sono solo, ho un po' paura, ma io sono qui. Visto che ci sono tante telefonate, diciamo subito a chi chiama che andiamo diritti al cuore del messaggio, cioè l'epitafio che vorreste avere sulla vostra tomba, che avete sentito, visto che oggi si parla di morte. Ah, io sono qui, qui a Radio 24 alle 16:35, quindi andiamo subito, andiamo in ordine, andiamo da Marco De Rimini. Pronto Marco? Ciao. Ciao. Ciao, grazie mille per essere qui, e mi pare che il tuo epitafio sia uno tra i migliori che ho letto fino ad oggi, che è? Control Cans. Perfetto. Marco, grazie mille, buona giornata. Prego. Ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo da Prato a Mario. Andiamo da Mario a Prato. Pronto Mario? Sì, ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Bene. Sì. Visto l'argomento, benissimo. Bravissimo. Tu dimmi che cosa hai pensato per il tuo epitafio. Io voglio esagerare, ne ho 2, una per questa vita e una per la prossima. Vai. Una è: qui giace Mario con, sì, punto interrogativo. Col punto interrogativo? Che suscita, diciamo, il dubbio. Sì, e l'altro? E l'altra è: qui giace Mario, suo malgrado. Mario, grazie mille, ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Intanto arrivano ancora al 349-238-6666, Giovanni, ora va meglio. Gianfranco da Vicenza, a presto. E invece Angelo dice: su una lapide ho letto: oggi a te, domani a me. Andiamo a Brindisi da Alessandro. Pronto Alessandro? Pronto. Ciao. Ciao, ciao Matteo. Dove sei? Io chiamo da Mesagne, provincia di Brindisi. Ma ti trovi dove? In macchina? In macchina, sono fermo. Perché mi pare di sentire le 4 frecce. Sì, sì. Bravissimo. Infatti. Tu cosa hai visto fare? No, cosa sai? Un tuo amico di fronte a casa, leggo, ha già, sì, comprato tutto. Infatti, una cosa strana, tutto l'ho immaginato, tranne che vedere quelle cose là. Niente, siccome che lui era un muratore, sì, da quando è in pensione, a 73 anni, sì, si dedica a tutto, lavora in legno, si è comprato un tornio per lavorare in legno, sì, legno d'olivo, il marmo. E niente, un giorno verso le 5 di pomeriggio, verso le ore 17, mi ha chiamato per farmi vedere una cosa. Io pensavo di farmi vedere le cose che lavora lui. Certo. Il legno e tutto. Invece? Invece mi sono trovato davanti una lapide con la sua foto, data di nascita, e c'è scritto sopra: qui giace Giancarlo il Grande. Non è vero. Non ci credo. Giuro. Ma e se l'è fatta lui proprio a mano? Se l'è fatta lui. E ha scelto anche la foto. Ha scelto anche la foto. Dopodiché, dopo 5-10 minuti, è arrivata la moglie, che va sempre in chiesa, no? Sì. È arrivata la moglie, ed è rimasta la moglie, perché pensava che era una cosa privata, come fate vedere. Sì. Si chiama Rosetta. Dico, Rosetta, scusami, dico, ma che ha fatto Giancarlo? Zitto, zitto, che non so più cosa fare, mi dice. Non so più cosa fare. E mo sta impazzendo, che mi diceva che vuole farsi anche la bara, vuole farsi. Ah, perfetto, vuole farsi proprio tutto il twin set completo. Sì. Alessandro, sì, dice che non vuol dare fastidio quando muore, figlia, la moglie, certo, chi ha voglia di dar fastidio. Alessandro, grazie mille. Grazie a te. Ciao, Matteo. Ciao, buona giornata. Io fui il primo frutto della battaglia di Missionary Ridge. Quando sentii la pallottola entrarmi nel cuore, mi augurai di essere rimasto a casa e finito in prigione per quel furto di porci, invece di fuggire e arruolarmi. Mille volte meglio il penitenziario che avere addosso questa statua di marmo alata e il piedistallo di granito con le parole pro patria. Tanto, che vogliono dire? Questo è sempre Spoon River di Edgar Lee Master. 800240024 349-238-6666. Andiamo da Gabriele a Ferrara. Pronto, Gabriele? Ciao, Matteo Grande. Ciao. Ascolta una roba, ne avevo pensate un paio, però... Dai, dimmene un paio allora, Gabriele. No, una sarebbe profonda, dovremmo raccontare una storia che radiofonicamente non c'è tempo, perché così. Ok, allora andiamo all'altra, però, che invece quella, è veloce. Quella simpatica, visto che sono quello che va sempre a trovare gli amici. Scusami, ti ho perso, sei sempre quello che va a trovare gli amici? Sono quello che va a trovare gli amici di solito, capisci? Sì. E quindi l'epitafio mio sarebbe: tranquilli, la prossima volta sarete voi a venire a trovare me. Ciao Gabriele, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo a Milano da Mario, pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao Mario. Senti, tu questo epitafio l'hai letto dove esattamente? Ma io l'ho letto su un articolo, su un giornale, e parlava appunto di questo epitafio, di questo comico, non ricordo il nome, che aveva scritto appunto, questa cosa qua prima non mi era mai successa. Grazie Mario, buona giornata, anche perché Mario mi sa che non aveva spento la radio. Ci abbiamo ancora tempo per una telefonata? Sì, ce l'abbiamo. Andiamo da Graziano, provincia di Monza Brianza, perché esiste la provincia di Monza Brianza, è vero? MB. Certo. Certo, Graziano. Come ciao, dimenticarcela? Ciao. Complimenti a Matteo. Grazie mille, Graziano, dimmi il tuo epitafio. Sei una bellissima voce. Grazie, Graziano. Il mio epitafio, io che sono un attore amatoriale. Scusami, non ho capito, tu eri un attore? Sono un attore amatoriale. Ah, ok, reciti in teatro. Sì. Che epitafio vorresti, Graziano? Che epitafio vorresti? Sono morto tante volte in scena, così bene mai. Graziano, buona giornata, grazie mille. Ciao, alla prossima. 800240024, non abbiamo più troppo tempo, temo, per ricevere altre telefonate, però vi leggo un altro paio di messaggi. Fio, non so per cosa stia, al cimitero dove vado volentieri a incontrare quelli che conosco e quelli che ti ascoltano. Poi c'è un altro epitafio che non è della persona che ha scritto il messaggio, ma l'ha letta da qualche parte. Ho corso tutta la vita per arrivare fino a qui. Oggi vorrei chiudere questa puntata, che ha avuto a che fare con un tema che di solito ha un certo peso e abbiamo cercato di renderlo un pochettino più leggero, ancora con uno dei pezzi che secondo me sono più belli dell'antologia di Spoon River, e che fa più o meno così. Non ero amato dagli abitanti del villaggio. E tutto perché dicevo il mio pensiero. E affrontavo quelli che mancavano verso di me con chiara protesta, non nascondendo né nutrendo segreti affanni o rancori. E assai lodato l'atto del ragazzo spartano che si nascose il lupo sotto il mantello, lasciandosi divorare senza lamentarsi. È più coraggioso, io penso, strapparsi il lupo dal corpo e lottare con lui all'aperto, magari per strada, tra polvere e ululi di dolore. La lingua è magari un membro indisciplinato, ma il silenzio avvelena l'anima. Mi biasimi chi vuole, io sono contento. L'ultimo messaggio che è arrivato è di Massimiliano, che dice: io ce l'ho pronto da anni, ed è questo qui. Ero un esemplare particolarmente vorace. Grazie a lui, grazie a Viola Bottoni, a Tiziano Bonini, a Paulino Corleoni e a Stefano D'Andrea. Domani veramente non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?